fino alle punti allucinante. Io stamattina ho dato un'occhiata, così dalla mansarda su, ma era tutto a posto, niente di che. Ogni tanto ci sgancia quel dipolo, ma l'ho riagganciato perché c'ha il gancio, come oscilla, lo butta giù, adesso appena fa tempo buono le metto un maniglione, così non si stacca più. Va bene, sì, beh, dac, non c'entra a fare, ma guarda che il Galaxy Saturn è una bella radio, io ne ho avuto due, li avevo venduti, adesso l'ho ripresa e penso che rimanga. Infatti tutta stamattina ho levigato le maniglie, gliel'ho tolte, perché c'era qualche graffietto, gliel'ho tolte, levigate. Però ero impegnato con il sommergibile, quindi quelle le ho lasciate stare, adesso domani mattina quelli le spruzzo e le appendo pure nel poggiolo, se fa bel tempo, se c'è sole, così asciugano, gliele ripiazzo, capito? A te ancora, capo. Beh, c'è la micro cornetta da lì fa, capito? Da lì ascolti, ma si sente molto molto bene, non è alto parlante esterno. Tutto da lì si fa, capito? Parla ascolta dal microfono. Microcornetta parla ascolta. C'è il pittitino, la microcornetta. No, lo tengo un po' distante. Oppure lo appoggio e si sente benissimo la modulazione, c'è un bel volume. Sì, le ho messo sommergibile perché poi parlando con tuo padre abbiamo scoperto che anche stagna come radio, capito? Infatti no, non si può smontare niente. È stata verniciata così. Naturalmente isolate tutte le parti dove sono gli schemi, le cose, eccetera. E quindi fatta così, sì, sommergibile, quello è un sommergibile, capito? Degli anni 70. E va bene, l'avevo visto, funziona benissimo, c'è una bellissima ricezione. Adesso vediamo di mettermi alla caccia di qualche opzionale. Perché c'è su internet, capito? Digiti il nome della radio, la sigla è tutto e ti dà gli opzioni, c'è la colonnina sua esterna, un altro tipo di microcornetta, praticamente a microfono però è sempre parla ascolta, ma non è microcornetta, ci sono un sacco di cosettine belline, dai. Adesso vediamo se la completo o se la lascio così, perché non voglio investire in questi tipi di radio, ho capito, Kappa, ma non so, c'è anche l'accordatore d'antenna incorporato, che non è a tutti, sì, c'è l'Oad Tune, c'è la funzione sua, capito, però entra in automatico, attento, entra in automatico, quando le inserisci te lo metti a tracolla, le inserisci la batteria sua, la 24 voce, le inserisci l'antenna sua, allora c'è l'accordatore automatico. Invece così è manuale, ma no, io stazionale no, quindi ho l'antenna diretta, un sacco di cose, non è un giocattolino, è molto professionale, ma è molto semplice da usare, io ho paura ad usarlo perché invece ieri mi sono divertito veramente. Adesso lo facciamo asciugare, sì, claro, ho trovato sotto al carbone stamattina, che c'è un amico lì a Ferramenta, ci conosciamo da bambini, e tra l'altro era figlio di uno che aveva la ferramenta in via Sproni di fronte al negozio dei miei suoceri, quindi Antonello, e abbiamo fatto di tutto proprio per mio padre, la radio, per assolutamente no, non esiste più quel colore, quindi me ne ha dato uno sempre verde militare, però è molto molto più chiaro, molto più chiaro, è un verde molto troppo visivo, capito? Ma detto prova questa, adesso è al forno lì nel poggiolo che sta asciugando. E poi vediamo, se non mi convince che non mi piace il colore, troverò un'altra soluzione, vediamo un po', perché a farla appunto col tintometro di Roberto non va bene, bisognerebbe chiedere alla UPA se te la fanno, la Max Meyer, devo vedere, intanto vabbè gli ho dato una rinfrescata così con questa, adesso poi magari si dà una carteggiatina e questa rimane come fondo, capito? Magari si dà una carteggiatina e si dà un altro colore sopra, capito? Adesso va bene così, quando asciuga poi ti mando le foto. Adesso vediamo, adesso ti ripeto, abbiamo già dato una prima mano e al limite rimane come fondo quello, così è, va bene. Però è un colore troppo, troppo vivo, non è che mi piaccia molto, la verità. Adesso vediamo, quando asciuga poi la metto a fianco agli altri, se insomma va bene la cioccolisce, no, ti ripeto, le faccio dare una passata di un altro tipo di vernice, dai, non fa niente. Tanto io non volevo dare a collezionisti, claro, non volevo dare a nessuno, quindi non è che non la devo tenere, perciò. Anche se per dire decido di farla nera, un nero opaco o un martellato, una cosa diversa dalle altre, non me la futti nuda se non è quella originale, capito? Tanto me la devo tenere, quella non ci tocca, anche perché me l'hanno regalata, ci tengo tantissimo e quindi non ho nessuna intenzione di farla fuori, capito? Anche perché funziona perfettamente ed è molto divertente modulare con la microcornetta. Infatti volevo usarla stasera, però è troppo fresca ancora. Se la sposto faccio le impronte delle dita e quindi è una, non va bene. La lascio asciugare tutto oggi, tutto domani, poi vediamo, insomma, se fa bella giornata, poi la rimetto su e mi metto a fare due chiacchiere con quella. Vabbè, gli ho detto a babbo, capito, non c'è problema. Pazienza, no, a me interessava perché io ce l'ho il 430, sai, sono un radio che non è che ci trovano i pezzi, non è che ci trovano tante cose, quindi avrei preferito averne un altro di scorta e l'avrei tenuto io, però l'ha dato, pazienza. Pazienza. Ah, ci vediamo questa sera, inverto l'antenna, ma lo faccio andare un po' questa sera, ma è sempre acceso in banda amatoriale, in 40 metri, soprattutto in 40 metri. Ascolto moltissimo, in 40 e 80 la sera, ascolto moltissimo, quindi è sempre acceso, non è che, però non si sa mai che serva qualcosa, almeno ce l'hai discorsa, capito? Va bene, vediamo un po', se vuole entrare qualcuno, no, non c'è nessuno, riprendi, eia, ma sai che mi ha mandato un video, Marco, voglio controllare bene il dato, perché non vorrei che io ho toccato qualcosa, cioè in questo ne ha abbastanza di pulsanti e pulsantini, e poi c'ha il clarifer che è molto sensibile, mi metto gli occhiali, se l'ho messo nella posizione giusta, perché questo agisce sia in ricezione che in trasmissione, capito? Si sposta di frequenza. Effettivamente ha ragione Marco, a te ti sente bene, ma mi sente tutto strappato. Aspetta un attimo, lo controllo meglio, un secondo solo. Scusate, sì Claudio, non è questione di FM, è stata una leggerezza mia, sì, indietro di 2 kHz e mezzo almeno. Ho spostato e devo centrarti a sinistra. Se mi sposto poco a destra rispetto alla posizione centrale mi sparisci. E se indietro, quindi fai 2 kHz buoni, anche 2,5, se non di più. E infatti è strano, mi Claudio, che tu copiavi male Bombolo, perché Bombolo da me liccio arrivava bene, arrivava chiaro chiaro. Buonasera a tutti, confermo anche io, sei leggermente spostato qua. 072-073. Allora, vediamo un po', sì, scusatemi, c'è col clarifer, siccome io sono mezzo CB, invece di metterlo al centro, l'ho messo tutto a sinistra, come adesso? Ultra perfetto, visto? È la massa che viene in varia, io non ce l'ho l'età vostra, ragazzi, sono mezzo CB, adesso mi sono messo gli occhiali, ho detto, ma porca miseria, Marco ha ragione, chiedo scusa Antonio. Marco ha ragione, siccome è un pomellone abbastanza grande, ma ce ne sono 7, e quindi ho spostato quello proprio del il clarifer centrale che c'entra sia la M che l'SSB e sono andato tutto in affanculo, adesso l'ho messo al centro, va bene? Sì, mi adesso andiamo avanti, ciao Gianni, Claudio di Muros, sì, ma è strano perché Antonio arrivava bene, Claudio di Muros arrivava bene, tu eri, hai visto com'eri, no? Invece poi non era l'FM che non c'entrava, era il tune, quello grosso, capito? Vai, chiodo. Ehi, saluto anche a Gianni Lubroffetta, perdonatemi, ho sbagliato io, dai. Beh, adesso è più chiara perché sono più centrato, è normale. K di Rogero, avanti, Gianni Lubroffetta, mi sente bene adesso? Ehi, ciao Claudio Muros e Marco, sì, adesso ti sento perfettamente, adesso sei bello centrato, sì, poco fa per ascoltarti, ho acceso qualche secondo fa, per ascoltarti dovevo praticamente spostarmi verso i 072 e 073. E niente, quindi adesso ti ascolto forte e chiaro. Benissimo, abbiamo risolto un altro problema allora, Bisogna stare attento quando uso il DAC di non toccare il... L'ho spostato per Antonio, invece il problema era il mio. Va bene, avanti muro, scambio. Via, capiterà. Così capitano. Io stavo pensando alle FM, infatti ho detto Claudio, è strano che il DAC è sempre uscito bene, non era mai uscito così nella vita, è strano che... comunque, niente di grave, dai. Poi questo baracchino non è centratissimo, chiodo, non è centratissimo, cioè questi di fabbrica li danno con una centratura porchedina, proprio molto molto approssimativa. Ti dirò di più, che ho notato anche una differenza con questi superstar moderni, una differenza di centratura tra trasmissione e ricezione, lo sai? Cioè magari sei centrato in ricezione ma non lo sei in trasmissione o viceversa, e quindi andrebbe portato da un tecnico, fatto allineare a caldo come Dio comanda, ma poi ti costa più l'intervento dell'apparato, capito? Ok, io vado ai fornelli, vi devo lasciare. Claudio, bello quell'apparecchio, quello caro armato, come l'hai chiamato, bello, che ha le decine di megahertz, il megahertz, i 100 hertz, 10 hertz, il kilohertz, 100 kilohertz, 1 kilohertz, poi c'ha la tastatura per l'SB, no, con i 100 hertz, bella bestia, il 320 mi pare sia. Ne ho sentito ieri di sfuggita a parlare, ho visto le foto su internet. Bene, vai Claudio, riprendi, quale TX per me? Marco, va bene, non so se l'hai sentita la modulazione, ieri esce molto bene anche con la microcornetta. Ok, va bene, adesso è al forno praticamente, è sommergibile, l'abbiamo messo al forno perché l'abbiamo verniciato stamattina, quindi sta asciugando. No, ma tra l'altro ho toccato anche il Mickey Gain, non so se la posizione del Mickey Gain era questa o questa qua, allora dovrebbe essere questa, vediamo un pochino, ecco qua, ho tirato appena su il Mickey Gain o Marco, perché tra l'altro c'è il Mickey Gain vicino al clarifer nel DAC, quindi sicuramente ho toccato anche quello, perché mi sono rimesso le cuffie e la modulazione era molto più bassa, così va bene? Benissimo, è sublime la modulazione, bella presente, bella bilanciata, poi vabbè, lo sai che il mio orecchio non è allenato, tu mi potresti mettere un K e magari non noto la differenza tra i due. Tutto bene, sì, sentito la modulazione, era leggermente un po' più citofonica, no? Leggermente, e sai che a chi somigliavi con la modulazione? Sembravi l'altro Marco, capisci, il radioamatore. Ho capito. Vabbè, quella è una microcornetta, non è che puoi fare molto, capito? Non si possono mettere altri tipi di microfoni, però già va bene, dai. Mi sono divertito un sacco ieri, oggi mi dispiace, non lo posso usare perché la verniciatura è fresca, se no faccio casino, capito? Vabbè dai, poi magari domani lo ricolleghiamo e lo facciamo andare. Ok, il cambio per Gianni Lubrofetta, avanti Gianni, riprendi. Ehi. Bene, sì, adesso la radio è migliorata appena appena, come hai toccato il microfono, va benissimo così, non tocca nulla, puntella e l'ha caduto così. Claudio con il baracchino che sta usando adesso lo sento molto più presente come radio, il segnale di Santiago 7 è la radio Super 5 Turbo, dai, avanti Muros. È un maresciallo dell'aeronautica militare. No, è simpaticissimo, veramente, ho fatto una bella chiacchierata ieri con quello, ma soprattutto ha una ricezione da favola, veramente, anche dalla sua praticamente colonnina lì, che è quella della microcornetta, vi ascolto molto bene, tutto qua. Va bene, ehi, adesso lasciamo stare così. No, stavo cercando di aumentare leggermente, vedi, 1, 2, 3, 4, prova, se riuscivo a avere una modulazione un po' più concreta, ma mi sa che così è troppo alta, vero Gianni Rubrofetta? La rimetto com'era. Ah, non è cambiato tantissimo, cara, comunque ti sei... è variata di poco, dai, non c'è stata una grandissima differenza. Preferisco questa al K, è molto più radiofonica, nel senso della 27, capito? Preferisco questa più 27 rispetto all'altra, capito? Vabbè, questi sempre baracchini sono, anche se sono baracchini giganteschi. Ascolta, c'è molta differenza da questa al Saturn Echo. Mi hai sentito col Saturn Echo, quello che c'ha il bip? Piacevole anche quella o ti piace più questa qua? Diciamo che a livello acustico suona meglio questa, perché cioè, hai la gamma in frequenza piena, c'è bassi, medi, alti, è completa, mentre il Saturn Echo forse pecca un po' più di bassi, cioè medio alti va bene, a livello di bassi suona ne ha un po' meno, questa è la mia impressione, quindi prendila con le pinzette per le sopracciglia, però preferisco questa perché è più completa, più rotonda, dai. Ehi, vabbè, questa c'è lo stadio finale a valvole, non c'è niente da fare. Va bene, avanti muro, se riprendi. K, ascolta Claudio, Chiodo, ma si è attaccato? K si sente, appena inciso sulla radio, però niente di che, dai, infatti a orecchio mi è sembrato che c'era qualcosa che bolleva in pentola. Positivo, sì, sei sceso qua da me, sei Santiago 6, considera che lo Smith del Superstar è leggermente tirchio, però adesso la radio ha migliorato tantissimo, sicuramente magari anche Claudio Spaviero ti darà conferma. Allora, questo è il Saturn Echo, o Claudio, che differenza noti? K, ok, quindi questa, aspetta, ecco, quindi questa è più amplificata, mentre l'altra invece è più corposa, va bene. Beh, questa non è, allora, questa così è in posizione 4-5, a metà il microfono, i toni sono a 2 e possiamo metterli leggermente così, ecco qua. Gianni Rubrofetta, tu che c'hai l'orecchio vigile, così va meglio rispetto a prima? Sì, vabbè, adesso che l'hai attaccato mi hai dato la conferma di quello che ho detto poco fa. Sì, la modulazione del DAC è molto più piena, sia in basso che in alto, mentre il Galaxy pecca un po' più sui toni bassi, capito? Forse per via del tipo di preamplificazione. Però io a gusto mio preferisco molto di più il DAC come suono, capito? Come sonorità. E niente, quindi riconfermo quello che ho detto prima, avanti. Ok, ma tu sei uno di quelli che l'orecchio ce l'ha molto vigile, anche perché hai fatto un lavoro e fai un lavoro molto particolare. Allora, secondo te, quindi, siccome l'altro sul DAC c'è un MB più 4 senza tonalità, senza toni, quindi con la mia voce al naturale, qua invece ci sono i toni che me li hanno fatti mettere a 2. Allora, se io invece di metterli così, i toni li metto così, guarda, ecco qua, cosa senti, cosa vedi tu, cosa senti? Va meglio in questa posizione i toni oppure in quest'altra posizione, secondo te? Allora, questo è il passaggio numero 2 e questo è il passaggio numero 1. Secondo te va meglio nel passaggio numero 1 o nel numero 2? Guarda, sempre per facendo riferimento al mio orecchio preferisco il 2, perché se lo metti a uno praticamente non fai altro che tagliargli i pochi bassi che ha di modulazione questa radio, sempre per il mio modesto parere, capito? C'è proprio una differenza sicuramente per via, no, a parte solo il microfono, sicuramente anche a livello di circuitazione, di elettronica, il DAC è più piena, capito, la modulazione, è come sentire un radione, la differenza è come sentire un bel radione e ascoltare un impianto stereo, capito? Ti ho fatto un attimino la metafora, dai. Si conferma, infatti è così, ecco perché ho voluto il tuo parere, quindi da così lo devo mettere così, ecco qua, eccolo qui, guarda, lo devo mettere così, questo è il passaggio di poco fa, confermi? Sì, confermo. Sì, questo ti apre appena appena di bassi, però oltretanto non fa, perché sicuramente evidentemente è la radio che non ti dà quel tipo di prestazione. Adesso chiediamo a Chiodo, vediamo un po' cosa ne pensa lui. Chiappa, no, vabbè, siamo qua anche per fare a volte queste prove, queste cose normali che servono per anche per capirci tra di noi, per fare questi passaggi di controlli, insomma, che ogni tanto facciamo. L'importante è che so come regolarmi, ecco, nel senso che devo lasciare le tonalità a 2 con Galaxy, mentre il DAC non ha bisogno di tonalità perché il microfono è un più 4 e poi lavora in un'altra maniera perché è uno stadio finale a valvoli, quindi insomma va bene così, dai. L'importante è che è giusto ogni tanto fare queste manovre, almeno sappiamo come dobbiamo comportarci. Va bene, avanti Gianni. KK, ascolta, ma hai sul Galaxy ci hai provato solo l'MB o ci hai fatto anche prove con altri microfoni per caso? No, sul Galaxy solo l'MB più 5, perché è l'unico tra l'altro che c'ha, come si dice, che ha la connessione sua, capito, già che c'è la connessione sua, quindi per quello l'ho messo, dai, solo per quello. Va bene comunque, altri microfoni devo mettere, l'adattatore, devo fare altre cose, quindi non aggiungano, già, capito, ce n'era uno pronto, gli ho inserito quello. No, a livello così di curiosità, era per vedere se avevi fatto già degli esperimenti e qualche altro test con un microfono diverso, capito? Giusto per quello. Adesso una domanda, la distanza che stai usando nel parlare col Galaxy è la stessa che stavi utilizzando con il DAC? Sì, però mi hai dato un'idea. Perché mi hai dato un'idea? Allora, posso verificare se praticamente, sì, posso fare un cambio, posso mettere il turner più 3. Se mi date un secondo, tolgo il più 5 e metto il più 3 con l'adattatore, perché il turner più 3 c'è la connessione del DAC, sì, c'è la connessione del DAC. Ok, cambio microfono, così mi dite qualcosa, un secondo solo, avanti, Chiodo, riprendi. KK, sì, adesso ti sei leggermente alzato il segnale, sei aumentato, sei qua a Santiago 7, ti sta appena appena rosicchiando la radio, vabbè, comunque già ti ascolto bene uguale, non è un problema. Allora, la mia situazione di emissione è questa, giusto per farti capire con cosa sto andando. Allora, c'ho un microfono preamplificato ZG M95, quello con Roger Beep, poi c'ho praticamente un Super Jopix 2000 con 9 watt in antenna e una grande boomerang. Questa è la mia situazione a livello di emissione. Avanti qua. Allora, Allora, io ho cambiato praticamente microfono, questo è il Turner più 3 con 1, 2, 3, 4, 5, quindi così non va bene, aspetta un attimino, allora ecco, lo devo mettere così. Mi dite se è cambiato qualcosa, se questa va meglio o peggio? Meglio. Sì, condivido e sottoscrivo, va decisamente meglio rispetto al microfono precedente, gli dà un po' più di frequenze basse, anche se non è, ti ripeto, e lo ribadisco, anche se non è a livello del DAC, comunque questo è leggermente superiore, dai. Anche Marco sotto ha dato conferma, avanti Marco. Sì, alle tonalità più calde, il DAC poi non ne parliamo, del DAC è sublime, con quel microfono. E quindi è migliore questa, dai. E per il passaggio di prima, lo stesso, come hanno detto loro, il passaggio 2 è quello più ricco di bassi, era migliore col più 5. Dai, io ci sono e non ci sono, quindi con X, vai chiodo le prime. Aspetta, va bene, già ti ho sentito che mi hai dato parere favorevole, dai. Quindi lasciamo il Turner più 3, mettendolo anche in questa posizione. Dovete dirmi solo perché il DAC ha una cosa dove si può regolare un po' la tonalità, no? Allora, così è nella posizione numero 1 e così è nella posizione numero 2, senza toccare la preamplificazione. Va bene nella posizione 1 o nella posizione 2? A tutte e due, però quella è questione di gusto, di orecchio, di colonnina, di apparecchio. Che dire, Gianni, tu che sei il tecnico audio video, sai, l'occhio e l'orecchio più allenato. C'è il passaggio numero 2, c'è una leggera come si dice, presenza superiore di toni bassi, però non cambia tantissimo, però ci si sente la differenza, dai, questo per quanto riguarda il mio parere. Sentiamo Chiodo cosa ci dice. Ok, quindi confermate così, dai. Confermiamo così, allora, che almeno non abbiamo problemi, quindi la preamplificazione del Turner così è a 2 e così è a 3. Così a 3. Forse a 3 è troppo alta, vero? Sì, io la preferisco a 2, cra. Maledetto questo microfono, dai. La mettiamo a 2 così, allora. Va bene, questo è un Turner più 3B, che io ho le connessioni sul DAC perché spinge molto di più, però se va bene qua lo mettiamo qua sul Galaxy, dai. Va bene, grazie dei controlli, adesso rimetto a posto l'altro microfono e usiamo questo, dai, ok? Avanti Marco, quindi in QRX, avanti Claudio, grazie dei controlli, che io metto a posto l'altro microfono sull'altra radio. Sì, infatti ho visto che il segnale è appena variabile, cioè non è costante, a parte i leggeri picchi positivi, però ho notato che ogni tanto calava. Adesso sicuramente magari gli spinotti o il cavo non stanno facendo bene il loro lavoro, magari non strigiti bene i PL, boh, controllati la cavetteria, magari sicuramente è una stupidaggine. Bene meda, dai. Cosa volevo dire? Non mi metto più, Marco e magari è Fornelli, boh, non so se come si dice, se è irreperibile, boh, se ci sei vieni avanti, dai. Lascialo stare Fornelli, lascia, se no fa danno. Oioia, vabbè, dai, se una canna già entra, io altri 5 minuti poi mi devo risolvere un problema con la scheda audio del computer che mi sta dando problemi. Ogni tanto mi dice hardware non presente, boh, magari c'ho i bigattini dentro, cosa ne so, devo controllare, avanti qua. Cosa devi controllare? Perché cosa c'ha? Problemi di cosa? Ogni tanto ho problemi con la scheda audio, mi dice hardware non presente, boh, adesso vediamo di controllare, non vorrei che ci sia qualche bigattino dentro, qualche virus che mi sta creando problemi. Cazzo, qualche bigattino. Muro, si è risolto? Ehi, con questo alfalima, mamma mia, chiara che... va bene, dai. Fai pure, siamo qua, non c'è problema. Avanti Gianni, se devi fare anche tu qualcosa, non c'è problema. Io sono qua comunque. Cazzo, staccato sei sceso a Santiago 3, Chiodo. Cazzo, da 3 a 7 proprio. Va bene, dai. Comunque già riesco ad ascoltarti lo stesso, il QRM non è molto alto. Metti a posto la caffetteria, che sicuramente c'è qualcosa che non va. Avanti qua. Ehi, allora invece io attaccato come sono, sentirei un po' più di ventolamento, comunque com'è? Salito il segnale? Sì, vabbè, qua il lago è arrivato a un certo punto, no, tira il freno a mano, non si muove più, e più che altro si sente che la radio si è appena sollevata. Perché questo amplificatore fa il contrario, invece di abbassarla la modulazione la manda ancora più alta, capito? Tutto qua, va bene, dai, era giusto una prova. Sì, alla grande. KK, sì, adesso ha ripreso il segnale di prima, dai, Santiago 7, prima era abbastanza oscillante, adesso è bello stabile, dai, bello stabile, va bene così, avanti. K, ok, va bene, dai, comunque tutto regolare allora, dai. Eia, ti stavo dicendo qua, Muros, che sono contento visto che riesce ad ascoltarmi, nonostante stia uscendo con 9 watt scarsi e con la grande boomerang, dai, sono contento che riesci ad ascoltarmi con quel segnale, dai. Eia, sì, vabbè, ostieni dentro una conca insomma. Sentire e farsi ascoltare non è così facile, e quindi tu sei sicuramente più avvantaggiato qua, figurati, ma neanche se ne parla. Nonostante sia in una zona aperta, sono comunque in una zona bassa, dai, avanti Sparviero. Sì, stavo parlando l'altro giorno con Lima 1 e con Giovanni arriva un po' più basso qua da me. Lima 1 è Santiago 8. Stavo parlando proprio l'altro giorno con loro, capito? Ottieri a me mi arriva, Lino 1 mi arriva a 9 più 10, mi arriva anche Pattara, mi arrivano tutti. Non c'è problema, va bene. Allora abbiamo puntellato già, dai, Tarn più 3B a 2 con il Mickey Gain della radio al massimo, power al massimo, quindi 10 watt, 12 modulati, va bene così. Ok, sì Claudio, va bene, 9 più 20, sì, radio 5 perfetta, il tuo segnale come sempre, ok? Vabbè, l'antenna è tutto, non c'è niente da fare, l'antenna quando è messa bene, in una posizione alta, irradia bene, eccetera, e vabbè, poi tu lì sei aperto per uscire, quindi non hai grandi difficoltà, già va bene, ma lasciato così, già stai arrivando bene. Mi arrivi una schioppettata, ti sente bene anche Gianni che è giù nella bassa valle, quindi non ci sono problemi, avanti già. Eia, sì, tra l'altro ieri notte sono scesi un paio di lampi qua vicino, infatti mi hanno necessitato, ho sganciato subito l'antenna, non si sa mai che successe qualche cosa di folgorante. Ehi, ha fatto un bel temporale ieri. Alle Punti ha fatto un casino nero lì nella zona di Punti, non so cosa se è successo l'anno, comunque forti fulmini e tutto, ma no, io ormai non stacco più niente, non ho più paura, prima quando avevo le altre antenne sì, adesso non stacco più niente, abbasso il salvavita, metto a zero la commutazione elettronica lassù e mi chiude completamente, i commutatori sono a zero internamente, quindi no, non me la futti nulla. Poi se si brucia qualche baracchino, pazienza, non la fine del mondo, le altre radio non ce le ho più, quindi non mi interessa. Avanti Muros. Sì, perché io ero su WhatsApp con Massimiliano, infatti l'ho letto di entrava in radio che stavo provando il sottomarino e invece mi ha detto no, ho staccato tutto perché qua c'è un temporale allucinante. E lì c'era passata anche una tromba d'aria, ne ha buttato il cancello lì di centro casa, cartelli, lampioni, no, ha fatto un casino netto. E quindi te l'ho letto in diretta perché ero su WhatsApp con lui, capito? Va bene, va bene. Sai cosa faccio io? Quando c'è temporale uso il sottomarino, che a quello non le fa niente, capito? Antenna diretta e non le fa niente, quello è un sottomarino, cosa le fa? È abituato all'acqua, infatti l'ho messo nel poggiolo, ma mi ha detto ma se piove non le fa niente a quella radio, no, non le fa niente, quello è un sottomarino, anche se piove che si bagna, non li va di nuda, vai Gianni. Sì, no vabbè, ho staccato l'antenna non tanto per paura della radio altre cose, no, perché non si sa mai, mi ritrova dritto a casa, ma poi se deve capitare capita, non è quello il problema. Prendo la palla al balzo e mi devo spostare, dai, devo risolvere questa cosa qua, casomai ci aggiorniamo più tardi, dai. Quindi vi saluto entrambi e casomai ci si aggiorna dopo, ok? Avanti Muros. Ma vedete che stiamo sbadigliando, ciao Lubrofè, grazie dell'intervento, grazie dei controlli e soprattutto del consiglio di aggiornamento microfonico. Dai, tu Claudio, lui faceva, non so se lo fa ancora, ma faceva un lavoro molto particolare, appunto di audio-video, quindi c'ha l'orecchio molto fine, io mi fido molto di Gianni. Ciao Gian, un abbraccio, se coincide stasera, se no alle prossimine, ciao ciao. Ehi, ehi, dai, salutoni, ciao ciao. E quindi è così, capito Cla? E infatti ho fatto la risata, ma cosa stai dicendo? Oh, questa è una radio militare che è stagna. Se ce l'avevano a tracolla i militari e attraversavano i fiumi, cosa vuoi che le faccia una radio del genere? Non le fa nulla, no? Effettivamente tuo padre mi ha confermato che stagna, ma si vede dove ci sono le chiusure, si vede la bavatura della guarnizione, capito? Deve avere delle guarnizioni come la testata della macchina per non entrare acqua. Sì, lascio sempre un attimo di bianco se vuole entrare qualcuno. Sì, è così, perché ho guardato anch'io poi ieri il Classman PCR 320, è così, è stagno. È una radio stagna, una radio militare stagna, quindi. Ma poi sì, me l'ho immaginato perché è attaccata al portaspalle, si vede che chiaramente faceva dei passaggi appunto un po' così. No, ma è troppo, è comica, veramente. Con quella micro cornetta, mia moglie entrava ogni tanto, ma sempre telefonando, sai, sì, sono al telefono. Poi ti ho mandato il video, hai visto. Ma esce bene, esce molto molto bene. Deve avere qualche bella capsula lì nella micro cornetta. Anche la ricezione è molto bella, capito? Ah, ma adesso vediamo se asciuga, sommergibile, domani lo colleghiamo di nuovo. Poi vediamo, ti ripeto, se il colore che abbiamo dato mi convince, perché è un verde militare, perché c'è scritto verde militare, però è molto chiaro, mi prende un po' all'occhio, mi vedendo le altre radio, nere, grigie, capito, questo verde non è che mi convince molto, quindi mi sta prendendo un po' di farla verniciare di nero e si rabbiglia le luci. Magari un nero martellato, un nero diverso, capito, qualcosa di diverso, però un po' più chiara, cioè un po' più, meno che dia all'occhio, mi clacca, capito. Me l'ha detto tuo padre ieri, sì, che vedeva un po'. No, io non ho controllato, io in base a come era il colore suo abbiamo preso il colore. Non si assomiglia per niente, ti ripeto, è un altro tipo di verde militare, ma non mi interessa. L'importante è che sia rinfrescata, che sia pulita, capito, non abbia più graffi. Che poi, quando la metti nel coso a spalle, nel suo contenitore a spalle, si graffia la radio, capito, perché si graffia, quindi, però la voglio rimettere lì perché le devo attaccare l'antenna, devo attaccare la sua alimentazione a 24, eccetera. E la voglio provare. Quest'anno mai la portiamo anche al mare, la mettiamo lì nella spiaggia con l'antenna sua. C'è un antennone, è una cosa allucinante, è più di 2 metri, tutta innestabile, è bella, verde lo stesso, anche l'antenna è verde militare, capito qua? L'FM non c'è neanche il DAC, non c'è neanche il DAC, non ce l'ha il Midland, il 574, l'FM, le bande laterali. La più completa che ho è questa, il Saturn Echo. Lo standard lo stesso non c'è l'FM. L'Intech sì, l'Intech c'è l'FM, il coso lo stesso, il patch, l'Inuit, sai, sono tutte radio così, senza l'FM, però non mi interessa, quando devo modulare in FM già ne ho radio con l'FM, però almeno è funzionante. Io la mia paura era, infatti, però chi me l'ha data mi ha detto vai tranquillo, fai queste cose che ti dico io e la radio funziona. Infatti avevo un po' di coso ieri, poi mi ha dato appunto la dritta dove collegare l'antenna, perché c'è il connettore a BNC, io ce li ho BNC, BNCPL, gli ho messo quello, ho collegato l'antenna. E niente, perché a primo impatto non sentivo nulla, schiacciavo la portante e faceva bi bi tipo un cicalino, capito? Detto, boh, ma come ti funziona tra cose? Invece poi stando attento ho messo in funzione lo scanner del 140 e si è bloccato nel canale 18, ho sollevato il volume e mi sentivo io con una bellissima modulazione. E infatti ho detto allora passate al 18 che è bloccata lì, e poi ho capito come si faceva per i canali, mi sono rimesso sul 10, capito? Però dai, simpatica, una cosa diversa, già va bene, dai. È simpatico, ti ho detto, ci hanno fatto delle risate allucinanti. Sì, adesso mi compro lunedì al mercatino, mi compro una tuta mimetica di quelle, quando sono a casa mi metto la tuta mimetica, il berretto militare mimetizzato, faccio un video, lo metto su YouTube. Ma vai, sto scherzando. No, vabbè, era una cosa, ti ripeto, una cosa diversa, riparte e funziona. Adesso vediamo se a domani è asciutta, la rimettiamo. La volevo lasciare dentro, però l'ho messa fuori, se la mettevo lì sotto il termosifone. Se vado in massata la metto dentro il fornetto, c'è un fornetto grande, ventilato, la metto lì e vedi che a domani è asciutta, anche stasera è asciutta, è pronta all'uso. Lasciala stare dov'è, c'è abili e luci. Cosa stavo dicendo? Quel pezzo dell'antenna poi l'avevi trovato, quel pezzo di plastica? Vabbè, è giusto così per ridere, dai, già va bene. Ascolta, altra domanda, ma tu del Pony, del 23 canali, il gemello del mio, praticamente Gianni cosa ha fatto? L'adattatore, quello a puntale, che originale, e poi l'uscita a 4 per attaccare l'MB più 5. No, non sai perché, perché ti ho sentito l'MP5, lei c'è veramente molto molto bene, mentre la mia invece c'è il microfono della gain e non spinge, non... Sì, funziona, per carità, ma non spinge come deve spingere, no, non va bene. Infatti gli ho tirato su anche il Mickey Gain dall'interno, come mi ha detto tuo padre, lì nella resistenza variabile che mi ha detto lui, sono andato direttamente lì, ma a colpo sicuro, perché è l'unica che c'è. Gli ho tirato su il Mickey Gain, sì, ha aumentato leggermente, ma sicuramente il microfono, che è un microfono vecchio, nonostante sia nuovissimo, nuovo, è anche molto bello, te l'ho mandato. Però non spinge molto, capito? Non spinge molto, e quindi le voglio fare un adattatore per usare uno dei miei MB più 5, che ne ho uno in più, perché due li avevo comprati nuovi, poi adesso ho anche il Turner più 3, e quindi me ne è avanzato un altro MB 5, e uno lo voglio mettere al Pony, eliminare quello della Gain, così sono tutti uguali i microfoni. Però sì, potrei praticamente staccare direttamente, perché il cavo che va al Pony lo lascio stare originale, così stacco direttamente lo spiralato dall'interno del microfono e lo collego direttamente all'MB più 5. Forse è più facile fare così che fare un adattatore, cosa dici? No, il microfono io non lo tocco già, neanche il connettore, c'ho il microfono originale col connettore originale, questo è scritto Pony originale, modello HD75, impedenza 3 kOhm Japan, questo è il suo originale, non lo tocco. Nel microfono da tavolo della Gain c'è lo stesso connettore originale, capito, a 5 punte. Io voglio usare quel connettore lì a 5 punte, staccare però i cavi dal microfono della Gain e collegarli direttamente a quelle all'MB più 5, capito cosa voglio fare? Invece di fare un adattatore. No, ma infatti io quando lui mi ha dato quella dritta lì mi ha detto prova a vedere se il Mickey Gear dall'interno è aperto. Ho controllato ed era tutto chiuso, l'ho tirato su, era a metà diciamo, non era tutto chiuso. L'ho tirato tutto su, ho migliorato tantissimo, però non mi soddisfa rispetto agli altri radio che ho. Sicuramente il microfono, siccome a te ti ho sentito con l'MB più 5, esce molto bene. Voglio mettercelo anche io più 5, capito? Più 5, più 4, vabbè, fare delle prove, ma senza toccare il connettore della radio, assolutamente. Ne ho due intanto connettori a disposizione, se no lo compro un altro e si fa l'adattatore, ma il connettore della radio non lo tocco, no, assolutamente. Ho lasciato anche quello dell'Intec a 5, potevo toglierlo e metterlo a 4, ho lasciato anche quello a 5, non mi interessa, lascio stare così, capito? Sì, mamma l'ha fatta vedere, no, manca la mia, io a me manca solo la scatola, io ho il suo cavo originale, quello grigio, abbastanza lungo, col suo coso, c'ho tutto, il microfono originale, manca la scatola e il manuale, è nuovissima questa, mai usata, io l'ho aperta dentro, c'ho le due colonnine collegate, due altoparlanti, è molto bella, è nuova anche questa, anche questa l'ho presa proprio usata ma mai usata praticamente, io ho visto nuova, lucidissima esternamente, tutta, non ha un graffio, veramente molto bella, però ti ripeto, non la sto usando perché non mi piace la modulazione del microfono che ho abbinato, e siccome è l'unico che ho con quell'attacco lì, e quindi devo trovare una soluzione per far funzionare anche quella, però con un adattatore, senza toccare niente dell'originale, capito? Va bene, non problem, è che ora si è fatta, e già le 6:30 sono, aci picchia, vabbè, comunque, io qua non capisco, questo, dai, se deve andare così, o così, non lo so. Sempre controllando il DAC, ce l'ho acceso, vabbè, ho commutato l'antenna sul Galaxy, volevo capire la posizione esatta, che è questa, sì, come abbiamo fatto, quindi al centro deve rimanere il clarifier, altrimenti mi sfasa la modulazione. Riprendi il clarifier, lascia un attimo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. Ehi, no, intanto gli ho detto a Gianni che già salgo, ma noi questi giorni a prendermi il caffè, a farci due chiacchiere, così vi faccio dare anche l'input per il Pony, appunto, voglio vedere il connettore come l'ha fatto, lo faccio uguale, per me è più facile perché non ho molta dimestichezza in queste cose, la verità è più facile staccare direttamente i fili dalle gain, lo conservo, me li segno, faccio la foto prima, capito, ma la tengo conservata nella galleria del telefono, risaldo i fili e risaldo tanto di MB più 5, ne ho tanti, ne apro uno e li metto i fili dove devono andare, mi viene più facile che fare mille saldature, adattatori e balle varie, capito? Così il cavetto è originale, perché lo disaldo direttamente da dentro il microfono e lo saldo direttamente dentro il microfono, e il connettore rimane originale senza toccare niente. Poi magari mi metto d'accordo con Gianni, magari qualche mattina salgo, porto il microfono e lo facciamo lì, intanto di portare la radio non c'è bisogno perché ce l'hai già, perciò lo facciamo lì. Ma io ho avuto l'Inuit, il Pullman, e l'altro qual è? Il 5024. insieme li ho avuti tutti e tre. Uno rodato, non mi ricordo qual è, perché della Perception ne ho avuto un paio io, ne ho avuto un paio. Quello che ho dato a tuo padre, vabbè, non era Perception, quello è il console, l'altro, eccetera, non mi ricordo, non mi ricordo qual è, però ho capito di che radio stai parlando, dai. Break. È stato il break. Quella che ho dato a tuo padre è il console 1 invece, sì. Console 2 già è bello lo stesso, già va bene. Sì, guarda, è perché io ho fatto alcune operazioni, ho preso il Galaxy, ne ho preso anche un'altra, poi questo militare sommergibile, e quindi non lo so, però molto probabilmente, siccome mi piace tantissimo, l'ho avuto, lo prenderò sicuramente il Simba. KK, avanti, doppio room, buonasera. Ehi, buonasera, finita adesso il sistema di tutto, sono stressato, vabbè, adesso mi rilascio circa almeno un'oretta e poi vado che devo fare roba. KK, buonasera a tutti, vi sto ascoltando tutta la sera, mentre faccio i lavori di casa vi ascolto. Ehi, è già io, va bene. No, mio, volevo parlare col sommergibile, stasera invece l'abbiamo mandato in verniciatura e allora sta asciugando e quindi non si può toccare, dai, sino almeno a domani, dopodomani deve il sommergibile sott'acqua. Avanti, Cla. Cla, dai, ciao, ciao da Ruginito, buonasera anche a te Claudio, dai. Niente, cosa volevo dirti? Ma l'hai fatto verniciare la carrozziera o l'hai fatto... No, è in carrozzeria, è dentro il forno, il sommergibile è dentro il forno, che asciuga. KK, vabbè, che colore l'hai fatto? Verde pisello. No, verde militare, è un po', non si trova più quella vernice, capito? Abbiamo fatto un verde militare, già va bene, no, è beh, verde pisello da troppo a luce. Però, come diceva Claudio, da troppo all'occhio questo verde militare così bello fresco, capito? Perché quello là oramai era scolorito, tutto eccetera, poi autografiato, molto molto bene. Cosa stavo dicendo? Porca miseria. E quindi stiamo vedendo un po' se darle un altro tipo di colore. A me piace molto quel nero un po' martellato, quel nero un po' diverso dagli altri, capito? Tanto non è che lo devo vendere o dare a collezionisti che non te lo ritirano perché non è il suo colore originale, non me ne fotti nulla. A me il colore che piace a me me lo faccio, ho capito già. Poi ieri lo stavo provando, ho fatto un video, se tu risate ci abbiamo fatto. Anche pompa, c'ha 25 watt, un segnalone, c'ha un bel ricevitore, funziona bene, diciamo, dai. Sì, è una sorta di radio tipo con le, come si dice, radio amatori, dai, tipo con le radio lì, KK. Ma adesso il verde militare stiamo facendo più chiaro, prima era più scuro con il verde militare, adesso rimane più chiaro. Non so, sento qualcuno? Come? Sì, ero io, Claudio, mannaggia. Ascolta, buonasera a tutti. Mi servirebbe un controllo, ma non qua, non adesso. Su qualche canale un po' sopra, credo, provare una cosa. Un po' fuori, un attimino solo. Dammi un canale. Un po' fuori cosa, Gianfra? Fuori dove? No, poi dal 10, il 14, il 15, l'1, il 2, il 27. Ah, va bene. Non so, vai al canale 5, non è tanto... Non splattola nessuno, io che siamo distanti, dai. Un secondo solo, do un controllo a Gianfranco. Ma se vuoi rimanere qua, Gianfranco, non c'è problema, No, è per non disturbare, capito? Io se devi disturbare, io, cosa ti serve, dimmi. Un controllo di questa radio, adesso io mando una trasmissione e tu mi dici se va, un attimino che passo in modalità digitale. Ah, ecco, devi provare la radio qua in digitale, va bene, siamo qua, così ti danno il controllo anche gli altri. Io sento gente parlare, ma non è la voce tua, no? Confermate, Gianni. tutta l'isola così, perché la fortuna, se devo dire, perché la fortuna, io direi che la fortuna è stata fatta più lungo. Padre Radio Maria. Cosa sentite voi, Claudio, cosa senti? Ho detto, cosa senti della modulazione di Gianfranco? Io sento qualcuno sotto che parla, ma sembra straniero, boh, non lo so. Sì. Boh, Marco, tu cosa hai sentito? Sembra Radio Maria, boh. Sì, praticamente sentiva come una radio broadcast in lingua, non ho capito che lingua, però bassissima, meno di Radio 1, ai limiti dell'udibilità. Ed era Gianfranco che provava qualcosa, giusto? Sì, sta provando in digitale, ma il digitale che conosco io non è così. Gianfra. Gianfranco sta provando il digitale. Gianfranco, ma no, io sento una voce diversa, boh, non lo so. Zero degree, ma cosa sono coordinate? Si sente una donna che dà come delle coordinate o dei numeri. Cioè, ho capito, zero degree. Io non sento niente, Gianfra. Gianni Opiorum, tu senti qualcosa? Io ho sentito una donna che parlava in inglese e dava delle coordinate, come ha detto Marco. Ciao Doppio. Ciao Marco. Non sei uscito, chi è? Sempre Gianfranco. Gianfra, io non sento niente. Io memorizzalo bene. No, è che io sbaglio ogni tanto perché sulla radio bisogna premere determinati pulsanti per cambiare le modalità e ogni tanto sbaglio il pulsante. E dicevo, Marco, è bassa come radio o va bene? A Marco ci dite, Marco! Va bene anche per te Claudio, era bassa oppure per Gianni era bassa oppure andava bene come livello? Era un po' bassa. È un po' bassa, non è che il livello era molto alto. Quindi devo aumentare, vabbè, l'importante era quello, solo che non poi era se si capiva o meno, tutto lì, cioè se era bassa o alta. Va bene, mi riallontano, ci sentiamo dopo. Ehi Gianfra, già siamo qua, dai. Già, mi hanno fatto mettere il più 3B sul Galaxy. Sia Claudio che Gianni il Broffetta dice che va molto meglio come tonalità. Confermi o puntello? Già. Ah, a me stai dicendo, non ti avevo capito, dimmi. Ho detto che mi hanno fatto mettere il Tanner più 3B qua sul Galaxy. Gianni Rubroffetta e Claudio. Va bene secondo te? Va benissimo. Io te l'ho detto da ieri di metterlo. E tu mi hai detto che aveva di basse connessioni, non potevi far quello. Vabbè, ho usato l'adattatore, non la cambio le connessioni. Perché questo è del DAC, capito? Però mi ha detto che la modulazione è completamente più bella, con tonalità diverse e tutto. Quindi lasciamo questo, mi sono ascoltato in cuffia, effettivamente è così. Avanti, muro, so. È bellissima questa radio. Poi già a gara si col microfono normale esce bene, immaginati se non esce bene con il microfono amplificato. Via dai. Andiamo bene, continuiamo. Allora Claudio non lo puoi usare oggi, sta asciugando la parete. Ehi, sì, no, l'abbiamo verificato metà mattinata, la temperatura non è calda, capito? E quindi ce l'avevo qua vicino al termosifone, però l'ho messo fuori nel poggiove, tanto no. Anche se piove non le fa niente, ma almeno prende aria, la vernice rimane più, se no qua dentro magari sia un po' la cosa, capito? No? Meglio tenerlo fuori. Anche perché una vernice particolare stava facendo un po' di puzza, quindi mia moglie ha detto di buttarla fuori dalla finestra, ma io l'ho messa nel poggiolo sopra un bambino. banchettino e adesso vediamo se domani è pronta la riattacco, se no aspetto insomma. Sì, già effettivamente come hai detto tu, non è molto più chiaro il verde militare che fanno adesso, capito? Quindi